Vorrei parlare della coppia perché è un tema, credo, che interessa un certo numero di persone. Non è così un tema marginale, tutto sommato. Ecco, io credo che si possa dire che esiste un mito oggi, è uno tra i vari, forse Galimberti potrebbe inserirlo nel suo libro, il mito dell'amore di coppia, cioè che due si incontrano, si innamorano e quindi è naturale che poi la coppia funzioni. E effettivamente sarebbe naturale del tutto se le due persone, uno, prima cosa, fossero solo due, ma di solito quando si incontrano due persone se ne trascinano dietro una decina d'uno, nel senso che molte volte il maschio si tira dietro la mamma, la femmina si tira dietro il papà e chissà quanti altri. Allora, noi possiamo creare una coppia se siamo davvero da soli, cioè nel senso che non ci portiamo dietro una tribù da una parte. Va bene, quindi abbiamo risolto i nostri fondamentali rapporti di dipendenza con i genitori e con altre figure. Ma questo lo sanno tutti, ce n'è un'altra cosa che invece è meno nota, anche se non del tutto ignota ovviamente, che quando due persone si incontrano, si innamorano, naturalmente in quel momento lì vedono ciascuno gli aspetti positivi, cioè utilizzano la proiezione delle parti positive sull'altro. E questa è la prima fase. Poi arriva praticamente sempre la seconda, quella che Hellinger chiama, la prima la chiama amore a prima vista e la seconda la chiama amore a seconda vista. A prima vista, appunto, sono le proiezioni positive, tutto va bene, luna di miele, va bene. Poi dopo comincia a venire fuori la seconda parte in cui escono fuori le problematiche di carattere che ognuno si porta dietro, le problematiche di carattere non risolte. Su personalità, se uno ha una personalità ossessiva, le tipologie estremizzate. Se sono un filler esagerato, prendo le osservazioni del mio compagno e della mia compagna sempre personalmente. Se sono un perceiver estremo, non riesco a progettare niente. Per cui, se ho un compagno normale, lo metto in difficoltà perché non riesco a progettare un viaggio, non riesco a insomma, e così via. Allora, tutte le nostre problematiche di carattere escono nel rapporto di coppia. Se non si fa nulla, noi, la coppia si trasforma in due sistemi di desideri che si incontrano e ad un certo punto si scontrano. Quindi il mito che va demitizzato attraverso l'analisi critica è che l'amore sia qualcosa di spontaneo che funziona da solo. Non è vero. L'amore funziona se si fa un lavoro per farlo funzionare. Ecco, oggi abbiamo parlato insieme di un tema che a me interessa molto. C'è un altro mito probabilmente su cui riflettere, che è il mito della famiglia mononucleare, autosufficiente, cioè che un uomo e una donna si incontrano e da soli creano un nuovo mondo. Prima erano due solitudini, poi finalmente si incontrano, queste solitudini finiscono, scoppia la scintilla d'amore e finalmente si va al paradiso. Beh, questo probabilmente non funziona. Perché? Il cervello umano non credo sia stato, si sia costruito così nei secoli, nei milioni di anni, non si è costruito così. Siamo vissuti per centinaia di migliaia, per milioni di anni, non in situazioni di coppia, ma in situazioni di gruppo, in cui il riferimento non era una singola altra persona, non saremmo sopravvissuti. Era una comunità di almeno una ventina, trentina di persone, ci si conosceva tutti ovviamente, ma non più piccola. Ecco, la modernità ci porta a creare i cosiddetti appartamenti, ci si deve appartare. La coppia sembra di finalmente riusciamo ad appartarci, cosa che ovviamente è sensato, purché non si è estremizzato. Ecco, perché nel momento in cui si apparta e si taglia troppo le radici con una comunità più allargata, la coppia rischia di insterilirsi. Secondo me oggi abbiamo affrontato un tema in modo abbastanza chiaro e con immagini forti che vorrei richiamare. Allora, immaginate due persone che sono due solitudini che si incontrano. Mentre si incontrano, cosa succede? Che l'altro diventa colui che mi dà l'affetto, mi dà le relazioni, mi dà la comunicazione, mi dà il senso di significato della vita, mi dà la realizzazione e l'investimento mio sull'altra persona è totale. Sì, che mi toglie dallo stato di solitudine. Mi toglie dallo stato di solitudine. Diventa il mio tutto. Diventa il mio tutto. Ma notate che, prendiamolo da un punto di vista dell'economia, se fosse così sarebbe un rapporto con un monopolista. Il mio fornitore di affetti è un monopolista, c'è tutto lui. E quando abbiamo a che fare con un monopolio, in che posizione ci troviamo? In posizione di dipendenza. Dipendenza. Okay. E cosa succede nella posizione di dipendenza? Si può amare quando si è dipendenti? Non penso che sia. È una, considerato una forma di amore, ma penso che sia una forma di amore non amore. È un amore verso, ma neanche verso se stessi, perché penso che se ci amassimo veramente riconosceremmo questa forma di dipendenza e riusciremmo a uscirne, quindi ad andare verso una strada forse più faticosa, ma che non ci tira verso il basso, ci tira verso l'alto, quindi verso la realizzazione di noi stessi, che penso che se la realizzazione dell'uomo non sia tanto per scopi fine se stessi, il lavoro, la famiglia, quanto aprirsi alla vita e quindi amare se stessi e gli altri, penso che sia la forma più di libertà più grande per un essere umano. Quindi ci può essere amore senza libertà? No, non ci può essere, non è vero amore. E se io sono dipendente, sono libero? No, non sono, non sono libero. Perché se io sono innamorato di te e io voglio fare una certa cosa e so che tu non la provi del tutto, sono libero nella vita. Sono schiavo di me stesso. Sono schiavo, perché la tua opinione per me ha un peso esagerato. Quindi dipendere vuol dire che ogni mio atto della vita poi devo continuamente fare i conti con quello che considero il tuo giudizio, quindi sono sotto giudice. Dare il permesso all'altra persona di guidare la mia vita. Guida la mia vita. Mm. Cosa succede se un'altra persona guida la tua vita? Cosa provi? Da una parte provi amore, mettiamolo, senti, ma dall'altra dentro di te, nel profondo, cosa sì, provi? È lì il problema principale. Cosa succede? Penso che scatti un odio, profondo nei odio confronti profondo. Della, magari inconscio, inconsapevole, o magari anche abbastanza consapevole. Viene fuori odio. Però, cioè, da questo lato sei innamorata di una persona, dall'altro lato, in quanto dipendente, ti senti soffocare e provi tutto ciò che... E quindi hai un contrasto insanabile tra odio e amore. Quindi... Che poi è una proiezione dell'odio verso me stesso. Che poi è una proiezione dell'odio verso sé. Vediamo, allora, quando ci troviamo di fronte a una persona che viene e dice ma io adesso ho un problema di coppia, perché notiamo che nel suo panorama intorno a lui c'è sterilità negli altri rapporti di fuori dalla coppia, c'è poco, non c'è relazioni intense, affettive, profonde. Beh, forse questo è un coso da considerare. Sì, è un campanello d'allarme. Sì. Sì, sì. Perché la crisi di coppia non sarebbe altrettanto forte se la persona, comunque, prima della coppia, durante la coppia, dopo la coppia, se la coppia finisce, fosse comunque all'interno un sistema di relazioni potente, che costituisce una base sicura. Sì. C'è un altro mito, che sono i bambini che hanno bisogno della base sicura, ma non è così, a parte che è un mito del tutto sconfessato anche dalla psicologia. No, non è così, la base sicura è necessaria da adulti, non solo quella interna, ma anche quella esterna. Sociale. E certo, cioè abbiamo bisogno di un sistema di relazioni nei quali vengono soddisfatti quotidianamente i bisogni primari di affetto, di affetto, di essere visti, di riconoscimento, di comunicazione, certo. E anche di sicurezza, cioè di sicurezza anche materiale. Una persona sa male da solo, sa che può contare su altre persone, no? ha una difficoltà finanziaria, sa di non essere da solo. Ok, quindi questa potrebbe essere una buona strada per tutte le persone che vogliono avere una relazione d'amore. In primo luogo sapere che hanno bisogno di avere intorno a sé un terreno di relazioni molto buone, affettuose. Allora il partner non diventa più il monopolista e non gli si proietta più su di lui troppo amore, in senso di amore possessivo, perché poi lo devi possedere, oppure odio, ecco. Quindi diventa una cosa più equilibrata, più sensata. Infatti Mauro, tu all'inizio di questo discorso hai detto due solitudini che si incontrano, se sono, cioè è destinata a finire in quel modo lì. Quando la terza solitudine. Solitudini si incontrano, ma se due persone che si incontrano non sono due solitudini, ma sono due persone che hanno comunque una vita ricca, inteso per ricca affettivamente, allora la storia è ben diversa. Allora la storia è ben diversa. Non è un caso che... In moltissime occasioni in cui c'è uno scambio, così un confronto, tantissime persone hanno questo sogno di vivere in una realtà un po' comunitaria, sì. No? Piacerebbe avere tipo una cascina in cui ognuno ha un po' il suo spazio, però si è tutti insieme. Però si condividono momenti comuni. Si condividono momenti, si possono vedere insieme, non so, la sera, insieme, sì. Così, sì. E poi... ma tantissime persone hanno questo. Tantissime che tu conosci. E questa non è una malattia mentale. Esatto. Ecco, oggi invece... Forse è voler uscire dalla malattia. E forse voler uscire. E allora andiamo a vedere un altro dei miti di oggi. L'autosufficienza, l'individuo che è imprenditore di se stesso. Autosufficiente, imprenditore, attivo, che si prende le cose nel mondo. Beh, ben poche persone sono adatte a fare una vita così, Altri che lo fanno si sforzano da morire, ma non è nella natura umana fare questo. Stavo per dirti, Mauro, questo è disumano, cioè non è nella natura umana. Non è nella natura umana. Non è nella natura umana. Quindi vediamo un attimino. Immaginiamo di nascere, domani nasco in una famiglia. Immagino che questa famiglia sia una famiglia mononucleare che vive in un appartamento in una grande città in cui i due genitori hanno un lavoro, poi si vedono a casa tra di loro, vedono la televisione. Io come bambino sono deprivato. Non so che cosa vuol dire il contatto sociale in cui gli esseri umani sono sempre vissuti, ma ancora 50 anni fa i bambini giocavano per la strada. Anche meno, cioè prima. Adesso pensa, c'è una bella immagine che porta Luigi Zoni nel suo libro, dice: nel sud quando c'era caldo si aprivano i balconi, le finestre, i cortili, tutti vivevano all'aperto. Adesso, quando c'è caldo, sai cosa succede? Si aprono i condizionatori. Sì. E per farlo bisogna chiudere le finestre. I bambini stanno in casa. Parlando con Attilio, e poi facendo anche quello che ho visto in Turchia i bambini vivono continuamente all'aperto e sono sotto la sorveglianza di una comunità. Sì. Non hanno nulla da temere. Quindi, sì, perché se manca il genitore di riferimento c'è comunque un altro ipotetico genitore che sono tutti gli adulti non è... sono allerta proprio sono allerta cosa... sono tutti il bambino non è solo di una coppia è di una piccola comunità non è anonimo ecco pensa cosa vuol dire essere un bambino che vive in una situazione in cui non si sente anonimo. Guarda, io sono vissuto in una famiglia mononucleare, quindi lo so bene di che si tratta. I miei genitori erano persone affettuose, non erano... e io sentivo comunque, proprio per la situazione finanziaria difficile che vivevamo, che comunque eravamo a rischio. E io sentivo la necessità di qualcosa di più allargato. Quando eravamo a Natale nella famiglia con mia nonna, così, io provavo i miei cugini, ma io provavo una gioia infinita. Dico, ma perché dobbiamo vivere questa situazione una volta all'anno? Cioè, è ridicolo. Perché non può essere sempre? Perché non può essere sempre? Per un bambino sarebbe la felicità assoluta. Sì, sì, sì. Ecco. Infatti, Mauro, ti porto la mia esperienza. Io sono figlia unica, come te, vivo in una famiglia mononucleare, però ho avuto la fortuna che mia mamma è stata lungimirante da questo punto di vista e lei, fin da quando ero molto piccola, si rendeva conto che io, chiusa in camera da sola, mi sarei un po' abbruttita. Allora lei ha fatto in modo che io potessi essere sempre in compagnia, quindi casa mia era aperta a tutti i miei amici, ma non solo nei pomeriggi venivano a dormire, stavamo insieme dei giorni, oppure al contrario, andavo io dai delle mie amiche, dai miei amici. Per me è sempre stato un fatto normale, cioè stare fuori a dormire o che qualcuno fosse a dormire da me era un fatto normale. E questo modo di accogliere poi è stato parte del mio carattere. Questo mi ha sicuramente aiutato molto e mi ha fatto molto bene come bambina figlia unica, che sennò mi sarei ritrovata lì. Pensa come sarebbe stata la tua vita se tua madre avesse avuto la fobia degli estranei, delle persone che non sono, e te saresti stata isolata in una gabbia dorata. Per fortuna io credo che questo derivi dal fatto che anche lei, figlia unica, ha vissuto in un tipo, diciamo, di famiglia più allargato, cioè i miei nonni avevano tanti amici e era un periodo diverso, ovviamente era un'epoca diversa, e quando loro uscivano anche con mia mamma, che aveva a quel punto una certa età, quindi 18 anni, cioè non è più come adesso che 18 anni me ne vado per gli affari miei, i miei nonni uscivano con i loro amici della loro età, con i loro figli di 18 anni, e c'erano queste compagnie enormi con persone di varie età. E non è che i ragazzi si isolavano, erano tutti insieme. Questo modo di vivere la compagnia poi ha portato appunto che mia mamma capisse questa cosa e mi permettesse di vivere questa, in questo modo le amicizie. No, ma io lo vedo infatti a scuola, i bambini che sono o più figlioni, cioè comunque bambini che crescono con, che magari hanno anche dei fratelli, che per genitori tendono a vivere piuttosto rinchiusi, diciamo, nella loro realtà, anche a scuola hanno più difficoltà di relazione con i compagni, perché questo comunque temono il confronto, temono il giudizio, non solo dei compagni, ma anche dell'adulto, in questo caso di noi insegnanti. E nei momenti in cui un bambino, quindi un futuro adulto, teme il confronto, teme il dialogo, questo lo porta ad essere autocentrato, autoreferenziato e quindi poi comunque chiuso verso gli altri. Ok, va bene. Okay. Allora, hanno partecipato a questa conversazione Mauro, Chiara, Marta e Barbara.